ha deciso di proseguire le vacanze alle Seychelles a spese della compagnia. Liberalizzazione, provvedimento al Senato per il voto di fiducia, la protesta a Roma dei professionisti. Città in affanno per lo sciopero dei mezzi pubblici, fermi anche molti treni e a marzo previste molte altre agitazioni. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. L'avete sentito anche nelle nostre breaking news, davvero una brutta notizia questa, stamattina la morte improvvisa di Lucio Dalla. Abbiamo scelto questa, una delle tantissime canzoni appunto di Lucio Dalla, davvero ne potevamo scegliere molte altre. Qui accanto a me Marta Cagnola. Allora Marta, partiamo dalla cronaca, che cosa si sa di quanto è avvenuto? Si sa davvero poco, Piera. Si sa che Lucio Dalla è morto per un attacco cardiaco, si trovava a Montreux in Svizzera per una serie di concerti. Il 4 marzo, è appunto la sua data di nascita, non possiamo dimenticarla, avrebbe compiuto 69 anni. Secondo quanto si è appreso, ieri sera stava bene, era andato a dormire sereno e sapevamo tutti che era in buona salute, perché la sua ultima apparizione era stata proprio qualche giorno fa al Festival di Sanremo insieme a Pier Davide Carone con il brano Nani. Qualche istante fa ha parlato uno dei suoi più cari amici, il fotografo bolognese Roberto Serra, che non voleva credere alla notizia perché ha detto: non è possibile, mi ha telefonato ieri sera, stava benissimo ed era felice, tranquillo, divertito e in pace con se stesso, e diceva che era emozionante ritrovare i luoghi di un analogo tour svizzero di 30 anni fa e pur nella diversità delle situazioni la stessa positiva risposta di pubblico di allora. Si era appena infatti esibito a Zurigo e poi appunto tutto questo sarebbe successo appunto questa notte a Montreux. Dicevamo poco fa, Lucio Dalla si era esibito solo pochi giorni fa al Festival di Sanremo e aveva deciso di partecipare soprattutto perché lo aveva invitato un carissimo amico, cioè Gianni Morandi. Abbiamo fatto 3 anni di tour insieme, siamo amici d'infanzia, per cui proprio in realtà mi piace anche esserci quando è lui che fa il direttore artistico o il presentatore. Adesso non ho capito bene cosa fa, fa tutto lui, però il discorso è che è molto piacevole fare quello che è il tuo mestiere in un modo diverso. Cioè, io dirigo l'orchestra, ma la dirigo perché sono anche amico dei musicisti, cioè non è che io sia un direttore d'orchestra, però ho diretto i solisti veneti, la Royal Philharmonic, sempre così quasi per gioco, però mi piace. E questo appunto raccontava della sua amicizia con Gianni Morandi a Sanremo e soprattutto del fatto che avesse deciso così un po' per gioco, un po' per passione di fare il direttore d'orchestra. Abbiamo ascoltato qualche secondo di 4 marzo 43 e una delle ragioni per cui aveva deciso di partecipare all'ultimo Festival di Sanremo, ce lo aveva raccontato appunto solo qualche giorno fa, era perché la canzone di Pier Davide Carone, cioè Nani, gli ricordava molto questa sua 4 marzo. Beh, come anomalia sicuramente, nessuno allora si aspettava una canzone come 4 marzo, come oggi non si aspettano una canzone come Nani. Ecco, la ragione per cui proposi a Carone di mandarla a Sanremo è proprio questo fatto così di stranezza, fuori target, e questo è un vantaggio. No, è un musicista vero innanzitutto, scrive testi bene e poi, cioè non è che sia importante, comunque è uno che ha venduto già molti dischi rispetto al suo primo disco, ha fatto 160.000 copie, quindi c'ha un suo fan base, un suo pubblico, e adesso prova anche a prendere un pubblico più generalista, più adulto, attraverso delle canzoni che sono insolite in un panorama come il nostro. Io sono favorevole ai talent show, se ci sono i talent, se c'è gente che non ha talento è inutile, però almeno sono le uniche cose dove c'è musica per i giovani o in televisione, oppure c'è il mercato indipendente, io lavoro anche con quel mercato lì, d'altronde Bersani, Carboni, tutti quelli che ho prodotto venivano fuori dal niente, quindi credo che Amici sia perlomeno una scuola, infatti Carone, che è un talento, è stato preparato perfettamente. Ho poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene sai. Scioglie il sangue dentro dalla sangue. Davvero difficile oggi scegliere alcune delle canzoni di Lucio Dalla, perché veramente Marta ne ha scritte, ne ha interpretate di bellissime. Ne abbiamo appena sentita un'altra, perché insomma Lucio Dalla è davvero una delle pietre miliari della nostra canzone italiana. Beh, quasi 50 anni di carriera, perché lui aveva iniziato proprio nei primi anni 60, addirittura nel 60 aveva debuttato in un festival europeo del jazz a Antibes in Francia. Lui aveva questa passione per il jazz, addirittura in uno dei suoi primi gruppi faceva, ovviamente il clarinettista, aveva suonato con Pupi Avati. E infatti anche il mondo del cinema sta ricordando in questi momenti Lucio Dalla. Stanno cominciando a uscire, come normale, le agenzie con le reazioni. Ho appreso la notizia con grande dolore, racconta Carlo Verdone. Solo 15 giorni fa mi aveva chiamato chiedendomi di presentargli il suo libro, ma nello stesso giorno, racconta Verdone, dovevo presentare il mio, così ho dovuto dire di no. Ma sono contento di una cosa, avevo dedicato a lui un intero film come Borotalco e lui ne andava fiero. Insomma, ricordiamo la passione per Lucio Dalla, della protagonista di Borotalco. Ma in questo momento scrive anche su Twitter Lorenzo Giovanotti: non ci posso credere, dai, davvero non posso crederci. Solo poche frasi sul profilo di Twitter di Lorenzo Giovanotti, proprio nel momento in cui la notizia sta cominciando a fare il giro anche della rete e del web. Ci sono anche le prime reazioni politiche. Vendola, un amico della Puglia, rimarrà nei cuori. Walter Veltroni: Lucio, anni di amicizia e valanghe di ricordi, non è giusto. Insomma, appunto, tutte le prime reazioni al diffondersi della notizia della scomparsa di Lucio Dalla. Allora Marta, resta qui accanto a me, perché continueremo a parlare nel corso di questo GR24 di questa notizia della morte di Lucio Dalla. Noi ora proseguiamo, facciamo una parentesi insomma con le altre notizie di oggi. Andiamo alla protesta dei professionisti contro le liberalizzazioni. È il Professional Day oggi, infatti a Roma l'iniziativa in collegamento con oltre 150 città, un'iniziativa che il sito del Sole 24 Ore sta seguendo in diretta, quindi potete andare su sole24ore.com, potete seguire gli interventi e le interviste. Noi ci colleghiamo con la nostra Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. E sono 2.300.000 gli iscritti per un giro d'affari di 195 miliardi di euro, 15% del PIL nazionale. Questi sono i numeri che rivendicano i professionisti italiani, dai medici agli architetti, dagli ingegneri ai chimici, tutti riuniti oggi in questa giornata dell'orgoglio professionale, il Professional Day, che ha preso il via questa mattina all'Auditorium della Conciliazione di Roma, ma anche in altre 150 sedi in tutta Italia. È un'occasione di riflessione sui cambiamenti introdotti dal decreto liberalizzazione, ma anche di protesta su alcune misure. Tra queste c'è l'obbligo di preventivo, che scontenta in particolare i commercialisti. Allora sentiamo Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Preventivo obbligatorio è una liberalizzazione dirigista. Non capisco che tipo di liberalizzazione esista nell'imporre un adempimento. Quando un cliente me lo chiede lo faccio, se non me lo chiede perché lo devo fare per forza? Che liberalizzazione è questa? Sì, gli interventi hanno avuto il pregio di modificare il testo per quanto riguarda le società professionali, e questo è il pregio maggiore. Gli altri interventi, se posso dirlo con franchezza, se li potevano risparmiare. È una giornata alla quale hanno preso parte anche molti giovani iscritti ai vari ordini. Sentiamo allora alcune voci. Sono un consulente del lavoro. Come mai oggi qua? Come mai qui? Per dimostrare all'Italia e al Paese che noi non siamo una casta. Siamo liberi professionisti, non abbiamo bisogno di ulteriori liberalizzazioni. Siamo una categoria che dà spazio ai giovani. Siamo formati oramai quasi prevalentemente da soggetti che sono al di sotto dei 40 anni e che semplicemente abbiamo il diritto di manifestare in maniera pacifica, ordinata e educata il nostro dissenso su questa riforma. Sono qui per interessarmi, nel senso che ultimamente si parla tanto di professione e con la riforma prevista per le professioni, anzi ormai già in pratica, più tutti i piccoli cambiamenti che operano sulla professione, è necessario tenersi informati. Gli ingegneri sono una categoria piuttosto pragmatica, quindi più che la protesta, intanto ci interessiamo. Non guadagni un giovane architetto, non viene pagato un giovane architetto, cosa normale che avviene, che anche a contratto fatto viene sfruttato, è sfruttato e poi non viene pagato. Quindi questo si dovrebbe dire, che l'architetto non è tutelato, quindi è un momento di difficoltà. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi. Intanto il provvedimento sulle liberalizzazioni è in aula al Senato, dove è in corso la discussione generale in vista del voto di fiducia. Il tasso di disoccupazione sale ancora a gennaio di 0,2 punti percentuali rispetto a dicembre, portandosi al 9,2%. Lo comunica l'Istat, confermando che si tratta del livello massimo dal 2004. In crescita nello stesso mese anche il tasso di disoccupazione giovanile, ovvero l'incidenza della fascia 15-24 anni sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro, che risulta al 31,1%. Il tasso di disoccupazione giovanile ormai si colloca sopra quota 30% da settembre. E sale anche l'inflazione, sentiamo. I prezzi corrono, il carrello si impenna. Luoghi comuni, facili battute. La sostanza però è drammaticamente reale. L'inflazione sale, da gennaio a febbraio l'aumento è di un decimo di punto. Tutto sommato poco, ma il dato è al 3,3% anno su anno, più 0,4% mese su mese. La fotografia così com'è tiene insieme tutti i prodotti e tutti i prezzi. Ma se andiamo a guardare i dettagli, che poi dettagli non sono per le famiglie, e mettiamo assieme i costi di tutto quello che viene acquistato con maggiore frequenza, i rincari sono del 4,5% su base annua. Non si vedeva un dato così dall'ottobre del 2008. E se sui prezzi dei carburanti ormai nessuno si sorprende più, spiccano invece i prezzi di frutta e verdura, che crescono di oltre 8 punti percentuali, su cui pesano gli scioperi dei trasportatori e il maltempo che ha investito il paese a inizio febbraio. Già pronti i calcoli dei consumatori. Secondo il Codacons, per mettersi a tavola tutti i giorni, una famiglia di 3 persone spenderà quest'anno circa 600 euro in più. La cifra cresce di 50 euro per una famiglia di 4 persone. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Stiamo sentendo un'altra delle più celebri canzoni di Lucio Dalla. Per ricordarne la figura, la notizia l'avete ormai sentita, è quella appunto della morte del cantante in Svizzera. Marta? Questa canzone ha proprio 40 anni perché aveva partecipato a Sanremo nel 1972, la canzone era dedicata a un senza tetto, la musica era stata scritta dall'allora giovanissimo Ron ed era aveva già partecipato molte volte, già a Sanremo Lucio Dalla aveva esordito con Puff Boom nel 66, poi Bisogna saper perdere nel 1967 e poi insomma abbiamo ricordato il Sanremo del 71 con 4 marzo 1940. 43. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto per un attacco cardiaco Lucio Dalla, era in Svizzera per una serie di concerti, aveva 68 anni. Liberalizzazioni, provvedimento al Senato per il voto di fiducia, la protesta a Roma dei professionisti. Ripartiamo dalle proteste no TAV che non si fermano. Ieri sera lo sgombero dell'autostrada A32, nel pomeriggio si annunciano invece nuove manifestazioni. In diretta con noi Raffaella Calandra. Sì, l'appuntamento è per le 18 e la parola d'ordine è una sola: blocchiamo tutto. Il movimento no TAV si prepara ad una nuova giornata di mobilitazione in Valsusa ma anche nel resto del paese, strade a cominciare dalla A32, i palazzi del potere e i binari, gli obiettivi privilegiati, con un occhio al Viminale e l'altro alla Valle. Il tantam tra le varie anime della protesta è partito in nottata, a conclusione di un'assemblea a Bussoleno che ha chiuso una delle più difficili giornate intorno ai cantieri dell'alta velocità. Alla fine si conteranno 29 agenti colpiti, una persona arrestata e feriti anche tra i manifestanti che ora denunciano cariche violentissime e inseguimenti pure nei bar, ci dicono. La polemica monte, infiamma il movimento, come ci racconta uno dei più attivi, Luca Anselmo. che tutti blocchino tutto alle 6 di questa sera. E lo diciamo apertamente in solidarietà a quello che è successo ieri. C'è stata questa carica pazzesca, abbiamo diversi feriti, non ci fermiamo assolutamente. Se volessero fare un passo indietro ci fermeremo, però non siamo così ottimisti. L'esito della giornata dipenderà dunque anche dalla riunione prevista a Roma tra il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri e i rappresentanti degli enti locali, ma la sua linea, il titolare del Viminale, l'ha già chiarita più volte: dialogo e fermezza, ma soprattutto nessuna tolleranza con la violenza e nessun dubbio che l'opera vada avanti, ha scandito ancora questa mattina il ministro, precisando però che con i sindaci sono pronti a qualsiasi ulteriore consultazione. E per ora è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. La Costa Allegra è arrivata questa mattina nel porto di Mahé, nelle Seychelles, e si sono concluse le operazioni di sbarco dei passeggeri. Sono le 6.30 in Italia, le 9 a Mahé, nelle Seychelles, e la nave da crociera Costa Allegra compare in porto, reduce da un lungo e lento viaggio al traino da lunedì sera del peschereccio francese Trevignon, dopo essere rimasta alla deriva nell'Oceano Indiano per un incendio in sala macchine subito domato. Danneggiando il quadro elettrico, le fiamme hanno lasciato quasi al buio per tre notti e senza energia per tre giorni 1.000 passeggeri. L'incendio è scoppiato nella sala generatori alle 13.40 del 27 febbraio e il comandante di Costa Allegra, Nicolo Alba, difende la prontezza dello staff. Questo incendio è stato prontamente estinto dal mio equipaggio in meno di un'ora. Un incendio, ripeto, in locale diesel generatori, con tutte le procedure che sono state effettuate come procedure di aziende e come procedure internazionali di emergenza. Disagi per i passeggeri che hanno dormito sul ponte confortati dai rifornimenti di cibi crudi, pane e acqua tramite elicotteri. Una volta sbarcati in sicurezza, 378 dei 627 ospiti della nave hanno comunque deciso di continuare la vacanza alle Seychelles a terra a spese della compagnia. Altri saranno rimpatriati subito in aereo, sempre a spese della Costa. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. I due incidenti delle navi da crociera del gruppo Costa hanno frenato le prenotazioni per questo tipo di vacanza. Roberto Corbella, presidente di Astoi, organizzazione confindustriale dei tour operator, al microfono di Anna Marino. Abbiamo riscontrato che per fortuna le prenotazioni che già sono state fatte vengono mantenute e vengono confermate, quindi non siamo in presenza di cancellazioni al di là di quelli che sono gli standard normali. Abbiamo invece dall'altra parte riscontrato un rallentamento delle nuove prenotazioni, e questo soprattutto di coloro che sono alla prima esperienza crocieristica. Di quanto sono i cali? Cambiano ovviamente a seconda del tipo di crociere e anche della zona del territorio, ma in questo momento siamo intorno al 20-25%. Il fenomeno che avverrà è quello di uno slittamento delle prenotazioni un po' più sottodata. Si può già quantificare il danno di questo calo? È ancora presto, anche perché questo è un momento, una fase di prenotazioni, non tantissimo di partenze, quindi se, come dicevo prima, si traduce alla fine soprattutto in uno slittamento delle prenotazioni, il danno potrebbe essere più contenuto. Se invece le persone poi opteranno per altre forme di vacanza, e allora qui potremmo riscontrare un calo più significativo delle prenotazioni. Il prossimo mese e mezzo sono fondamentali, questo è un periodo in cui classicamente la gente comincia a pensare e prenotare per le sue vacanze. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Per ogni guida turistica autorizzata a Venezia ce ne sono 5 di abusive, quindi completamente sconosciute al fisco. L'allarme è stato lanciato dalla presidente dell'Associazione Guide Turistiche di Venezia, Caterina Sopradassi, ma in questo caso Venezia è paese. Un danno significativo non solo per la sottrazione di lavoro a coloro che hanno studiato per ottenere la licenza. Basti dire che un tour di 2-3 ore con una guida regolare ha un costo di circa 120 euro tasse comprese, mentre un abusivo ha un costo ridotto ma sconosciuto all'erario. Fate voi i conti. A questo Marcella Bagnasco, presidente dell'Associazione Nazionale Guide Turistiche, aggiunge dell'altro. Per esempio abbiamo visto sparire, questo in tutta Italia, i francesi. Ma qui subentra un altro discorso, non è tanto l'abusivismo locale quanto le norme europee che vengono violate. In pratica, secondo le leggi europee, le guide turistiche straniere possono operare in Italia, ma solo temporaneamente e occasionalmente. In realtà, dice la Presidente, le guide varcano il confine tutti i giorni, sottraendo lavoro alle guide italiane, dice la Presidente, ma anche sottraendo soldi alle casse dello Stato, diciamo noi, perché pagano le tasse nei loro paesi di origine. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Ecco, continuiamo dunque a parlare di questa notizia di oggi, la morte di Lucio Dalla. Era in Svizzera per una serie di concerti, aveva quasi 69 anni, è stato stroncato da un attacco cardiaco. Davvero lutto nel mondo dello spettacolo, stanno arrivando commenti da parte di moltissimi personaggi della cultura e dello spettacolo che con lui avevano lavorato. Stiamo sentendo una delle canzoni forse più famose, Marta. 1979, l'album Lucio Dalla, con appunto L'anno che verrà e poi ancora L'ultima luna, ma anche La straordinaria Anna e Marco, un successo da 1 milione di copie vendute. Erano altri anni, un successo addirittura bissato l'anno dopo da un altro album che conteneva canzoni straordinarie come Futura, Cara, Balla balla ballerino, e questo si intitolava Dalla. Dicevamo, le reazioni: non riesco a parlare, sono troppo distrutto dal dolore, ha commentato attraverso il suo staff Gaetano Curreri, leader degli Stadio. E l'apprendistato artistico di Curreri era proprio partito nel 1979 insieme a Lucio Dalla, erano quegli anni ed era anche l'anno dello straordinario celebre tour Banana Republic con Francesco De Gregori. E poi un altro saluto per Lucio Dalla, quello del Bologna Calcio, di cui era grande sostenitore. Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere sempre uguali, sempre quelli all'equatore, al polo nord? Come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però? Marta, una delle tantissime canzoni interpretate con De Gregori, una coppia per tantissimi anni. Questa forse è la canzone che ci ricordiamo con più facilità, ma come fanno i marinai? Pensare che questo brano nacque, lo raccontavano in modo abbastanza casuale. De Gregori dice: la canzone, forse la gente non ci crede, è nata a pranzo quando dopo il caffè ci siamo messi a suonare insieme. Dopo questo 45 giri, il tour, dicevamo appunto Banana Republic, stadi pieni in tutta Italia, 1979, l'anno prima un concerto, l'anno precedente un concerto allo stadio Flaminio di Roma, 40.000 spettatori, e poi insieme collaborarono nel 1980 all'album Una città per cantare di Ron. Si susseguono anche i nomi dei grandi talenti che Lucio Dalla ha individuato nella sua carriera. Grazie, ringraziamo Marta Cagnola. La notizia, la ricordiamo, la morte di Lucio Dalla, ed è con un'altra famosa canzone che è rimasta nel cuore di tutti noi, proprio di questo straordinario artista, che chiudiamo questo GR24. Che torna sempre tardi dal lavoro, che ha un cappello piccolo così, con dentro un sogno e più ci pensa, più non sa aspettare. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.